Noi nella celebrazione della Chiesa incontriamo tanti santi durante l'anno liturgico e tante volte sono santi, chiamiamoli antichi, cioè che risalgono anche ai primi secoli della vita della Chiesa. Oppure ci sono anche altri santi non così vecchi, ma ugualmente datati, magari di un po' di secoli. Eppure guardate che c'è anche un fiorire di santi moderni, anzi addirittura contemporanei, che vivono, sono vissuti quando noi eravamo già nati. Per esempio, se pensiamo a Giovanni Paolo II, l'abbiamo conosciuto benissimo, Madre Teresa di Calcutta, San Massimiliano Kolbe, e ce ne sono anche tanti altri che la Chiesa sta continuamente elevando all'onore degli altari. Oggi ci viene proposta Edith Stein. Io non riesco a riassumere la vita di questa, ma guardate che è un gigante. È stata scelta da Giovanni Paolo II come una delle patrone dell'Europa, assieme ad altre, no? È una donna di origine ebrea che si è convertita al cristianesimo leggendo la vita di una santa. Storia di un'anima, di Santa Teresa di Gesù Bambino. E poi è una persona intellettualmente preparatissima, diventa assistente universitaria di un grande filosofo europeo, Husserl. E poi addirittura vuole consacrarsi suora, diventa carmelitana e alla fine, perché è ebrea, viene anche lei arrestata e deportata e uccisa ad Auschwitz. Se avete l'opportunità, cercatevi un bel DVD, La settima stanza. Presenta in maniera molto densa, ma molto efficace, la sua vita. Le vite dei santi sono tutte belle, sono diversissimi perché i santi sono persone che hanno la loro personalità diversissima, no? E in questi giorni circola, l'ho ricevuto anch'io sul cellulare, circola una testimonianza di una suora, non è santa, ma è sul cammino, insomma, suor Claire Crockett, una ragazza bellissima, si vede proprio una ragazza bellissima, che era incamminata sulla strada di Hollywood. Ma poi lei sceglie di lasciare tutto e di seguire Gesù, e negli spezzoni che si vedono di questo filmato testimonianza si vede che era una donna esuberante, vivacissima, anche da suora, una che ha fatto tanto bene e che non mancherà di lasciare il segno come sua testimonianza. Ma se noi guardiamo, ci sono anche altre persone giovane. Avete mai sentito Carlo Acutis? Se non sentite questi nomi, mi spiace per voi. Edith Stein, Carlo Acutis. Sarebbe bello che invece di leggere o di ascoltare il gossip pettegolezzo, per cui si sa che tipo di vestito, di biancheria intima portava la tal diva o la tal roba, che noi affrontassimo questi grandi personaggi, che poi diventano anche santi, oltre a essere umanamente ricchissimi. Impariamo a utilizzare bene il computer e WhatsApp. È un mezzo di evangelizzazione. Un giorno in un esorcismo il demone, comandandomi, mi dice: devi smettere di evangelizzare. E gli dico: guarda che i comandi qui non li dai tu, i comandi li dà il cielo per mezzo mio e della Chiesa. devi smettere di evangelizzare, ti romperò i tuoi strumenti. Io registro tutti i pensieri che faccio col cellulare e poi li spedisco a tante persone con WhatsApp. E allora io, per difendermi, gli ho detto: e io prenderò questi strumenti e li nasconderò sotto il manto di Maria. E fino adesso mi è andata bene. Sono passati già qualche anno e credo, col permesso del cielo, sto diffondendo anche la vita dei santi, anche la parola di Dio attualizzata al giorno d'oggi. Impariamo a usare bene i mezzi di comunicazione moderni. Non sono uno strumento del diavolo, sono uno strumento anche nelle mani di Dio, dipende da come noi lo usiamo.